con il musicista Pigi per presentare il prossimo rave teatrale di Voci nel deserto, Frammenti di libertà di pensiero, a Roma, a Luigi Hill, venerdì 16 novembre. Pigi, ben trovato. Ciao caro, come stai? Bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Pronti, pronti, siamo pronti. Siamo pronti. Voci nel deserto. Tema immigrazione, giusto? Questo è il tema della. Ok, allora intanto per chi non conoscesse questo fenomeno, raccontiamo brevemente cos'è Voci nel Deserto. Voci nel Deserto è un, diciamo, un collettivo teatrale, uno spettacolo, ma anche un insieme di attori, di artisti che si sono uniti per cercare di raccontare qualcosa. Uno spettacolo, un progetto di teatro civile in cui ognuno di noi porta in scena uno scritto del passato. Racconti in qualche modo dei momenti anche molto presenti. Si va di solito in scena con un tema di riferimento, questa volta è quello dell'immigrazione, insomma delle migrazioni, e si cercherà, è già successo, Marco Melloni, autore e regista, ha selezionato monologhi, canzoni, stralci, reti, comunque teatrali, da tantissimi stili diversi che poi metteremo in scena in tanti. Questo si fa in tanti ed è molto bello perché è un fatto sia teatrale che quindi riguarda grandissimi artisti che si mettono a disposizione per cercare di raccontare qualcosa di importante, e sia però ovviamente anche civile, come dicevamo, perché si racconta della roba pregna di significato e che spesso possa un po' diventare utile al presente. Tanti attori e attrici, ma anche musica, ma anche immagini. Succedono tante cose, è uno spettacolo veramente multimediale, e per chi non l'avesse ancora mai guardato vi consiglio veramente di venire al 16, perché è un fatto strano, è un fatto veramente teatralmente molto strano, tanti artisti insieme che si mischiano in un modo molto creativo, appunto, con i vari linguaggi, video, musica, io canto delle canzoni, però insomma ha un senso, c'è anche un DJ, insomma ha un senso di grande modernità, pur mantenendo un fatto completamente teatrale, di grandissima innovazione di linguaggio. E poi la cosa più importante però sono i contenuti, al di là del linguaggio teatrale, ovvero quello che proviamo a dire. E la bellezza di Voci nel Deserto, di tutti i momenti in cui ogni monologo finisce, è quando viene citata la didascalia, cioè senti un monologo che sembra parlare oggi di Salvini, dei problemi che abbiamo oggi con l'immigrazione e come viene trattata ovviamente da per esempio Salvini e Salviniani, e poi alla fine invece la didascalia ti racconta che quel monologo è stato scritto, quel pezzo di giornale, insomma, quell'articolo è stato scritto tantissimi anni fa, che a volte può sembrare anche frustrante, perché vedere Voci nel Deserto a volte può pensare, ma allora la storia non cambia mai, cioè abbiamo sempre i corsi e i ricorsi, problematiche, però a volte conoscere tutto quello che succede di male nel mondo può aiutarci a comportarci diversamente dal giorno dopo. Voci nel Deserto ha proprio una missione pratica e questo mi piace molto. Tra l'altro ha pubblicato anche due volumi che sono la raccolta degli estratti che vengono utilizzati nei vari spettacoli. Sì, ci sono due volumi con tutto il grandissimo lavoro di raccolta che ha fatto Marco Melloni, perché non sono ovviamente tutti monologhi teatrali, come dicevo, ci sono canzoni, pezzi di giornale, interviste, battute di film, c'è un grandissimo lavoro di ricerca, la raccolta differenziata della memoria, anche un sottotitolo di Voci nel Deserto, ha sempre questo scopo, a capire chi ha scritto e chi ha detto queste cose, quanto possa poi diventare un aiuto pratico. Io penso che questo serva oggi, no? Non si può chiedere alle persone di non essere ladre, di non essere razziste, non si può chiedere così, perché nessuno cambierà la sua brutta natura se ce l'ha, ma gli si può chiedere di provare a leggere qualcosa, a sentire qualcosa, a studiare qualcosa. Questo gli si dovrebbe chiedere, infatti i nostri problemi principali nelle società e nell'umanità li abbiamo sempre dal punto di vista dell'istruzione, della cultura di base, e questo poi comporta i tanti problemi che abbiamo nelle strade e nelle città. Quindi Vocentetto cerca di fare nel suo piccolo un lavoro quasi da, non lo so, io mi immagino Vocentetto come dei supereroi, no? Cioè abbiamo l'uomo allungabile, la cosa, la donna bionica, tutti mescolati insieme per cercare di andare sul palco e raccontare qualcosa che non sia mai indottrinante. Quello che dicevo prima è proprio, il senso è proprio quello, cioè tu non puoi dire a una persona non essere razzista, per esempio sul tema dell'immigrazione. Cioè, lo puoi fare, puoi cercare di dirglielo con delle leggi che ti permettano per esempio, di non picchiare, ma che poi a volte vengono non rispettate. Puoi dire alle persone però invece, leggiti una cosa, leggiti questa cosa, poi cosa dopo sei ancora razzista. Leggiti bene questa cosa. A volte bastano delle pagine di Wikipedia per non essere fascisti, per esempio. Ti leggi Wikipedia del fascismo, scritto chiunque, un minuto dopo a continuare ad essere pro-dittatura, insomma, qualunque essa sia. Sì. Senti, una curiosità, hai realizzato e o realizzerai per questo nuovo appuntamento dei pezzi appositi, originali? Generalmente non è questo il gioco di voci nel deserto, come dicevo, quindi prendiamo sempre cose del passato, pensate, ripensate sull'oggi. Ogni tanto capita anche che io faccia qualche mia canzone, probabilmente succederà, visto che qualcosa sul tema in effetti nel mio repertorio ce l'ho, però succede un po' di tutto, insomma sono tutti scritti, mai in effetti scritti ad hoc per oggi, proprio perché il senso è quello, cioè Certo. andare in scena con delle cose che sembrano instant, pensate sulle tematiche del giorno, sull'attualità, ma non sono assolutamente instant, ma sono state scritte 5, 10, 20 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa. E questo è il grande gioco teatrale di Cucina del Deserto, è la nostra forza, credo anche. Per tutte le informazioni ci sono tutti i canali social e il sito internet di Voci nel Deserto, giusto? Assolutamente, quindi andateci a cercare in ogni dove, social, Facebook, sito e tutto quanto, siamo online un po' dappertutto e da diversi anni e poi assolutamente venite il 16 perché il tema è importante e bisogna ripartire da qualche cosa di scritto bene e magari speriamo di essere bravi a dirlo anche bene noi. Un'ultima curiosità, Pigi, in questa nuova stagione ci saranno delle scadenze fisse o è tutto un po' casuale? Ma Voci del Deserto ha sempre un misto di tante possibilità, quindi poi si snocciolano nel corso della stagione i vari appuntamenti. Quindi io vi consiglio, ci sono tante novità in arrivo e tante cose che succederanno anche in questa stagione, quindi io vi consiglio di stay tuned, come si dice, cioè di stare attenti, di stare come si dice, connessi alle nostre pagine online e di guardare bene tutto quello che succederà, perché ne succederanno delle belle. Prossimo appuntamento con il rave teatrale di Voci nel Deserto, Frammenti di libertà di pensiero sul tema immigrazione a Roma, Luigi Gil, venerdì 16 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Pigi. Ciao caro!